l'hai fatto per me. E non c'era niente che volevo di più. E non c'era niente che valeva di più. Mi hai detto di portarlo nei momenti bui, ma non è il buio che mi fa paura, è il fuoco che si spegne piano piano. È il tempo che passa e non lascia niente. Non ho capito com'è che mi ha fatto dimenticare di te. Giorno per giorno, filo per filo, mi ha fatto dimenticare di te. Poi all'improvviso non ci siamo più visti ed è come se in fondo non ci fossimo stati. Non mi è rimasto niente addosso, ma non mi ero accorto dei fili intrecciati al mio polso. So che domani finalmente c'è il sole. Non voglio ritornare a casa e resto ancora fuori mentre piove a dirotto. E un riparo non c'è. Giorno per giorno, filo per filo, mi ha fatto dimenticare di te. Giorno per giorno, un altro respiro, mi ha fatto dimenticare di te. Si scioglie, il tuo nome svanisce, cade per terra in una strada qualunque. Giorno per giorno, filo per filo, mi ha fatto dimenticare. Per filo mi ha fatto dimenticare di te.